Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. L'altra sera ho incontrato un mio amico che mi ha guardato e mi ha detto: Corea, senti un po', perché questo è uno di quegli amici che ti conoscono da 20 anni e ti chiamano per cognome. Corea, dimmi un po', sono 3 settimane che parli di cambiare vita, che ti chiama gente che cambia vita, che ti scrivono quelli che vogliono cambiare vita, ma l'hai capito come si fa a cambiare vita? Io l'ho guardato, ci ho pensato un po' e gli ho detto: no, però ho capito che è una cosa molto utile se vuoi cambiare vita e saper fare una cosa con le tue mani. Primo, perché se fai fare una cosa con le tue mani, la pizza, un cappuccino buono, una torta, la saprai fare da qualsiasi parte del mondo, anche se non sai la lingua, se non conosci nessuno, la sai fare, punto. Secondo, perché tutti si lamentano che per cambiare vita ci vogliono i soldi, ci vuole il tempo, e poi spendono soldi e tempo per comprarsi della roba che si potrebbero fare a casa da soli. Mio amico mi sembrava molto soddisfatto e io, siccome questa cosa me l'ero inventata lì per non avere niente da dirgli, ho pensato che oggi dovremmo parlare di questo, delle cose che vi sapete fare da soli. Ascolta Artemio, ti ho preparato un bel pacco, ci ho messo dentro un prosciutto, la coppa, qualche ovetto e un po' di farina, te lo spedisco subito. Mamma, lascia perdere, non mandarmi niente, in città mangiamo in un modo diverso, più pratico, più vitaminico. Anzi, adesso ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo, ciao, ciao. Vino cartonato, tac, spaghetti pronto uso, contorno sul gelato, tac, tonno e grissini per tagliarlo, tac. Oh, questa sì che vita. Beato te. E questo spezzone del mitico film Ragazzo di Campagna con Renato Pozzetto ci ricorda che una volta i nostri genitori, le nostre nonne, sapevano fare un sacco di cose con le mani, un sacco di cose a casa, il vino, i formaggi, i prosciutti, i capicolli, soppressate, e noi, più giovani, non sappiamo fare quasi niente, e un giorno ce ne pentiremo di questo, ce ne pentiremo. Benvenuti, bentornati a Giro di Vita, io sono Achille Corea e questo è il programma che ogni giorno vi racconta storie di chi ha cambiato tutto e si è inventato un nuovo inizio, ma che il venerdì vi racconta dei cambiamenti che sembrano un po' sfumati, ma che possono essere anche più rivoluzionari. Abbiamo parlato di quelli che provano a rallentare di fronte a questa vita frenetica, abbiamo parlato di quelli che provano a guadagnare tempo e a vivere con lentezza. Oggi parliamo di chi sa fare delle cose, di chi sa rendersi autosufficiente, e quindi questa è la domanda: voi cosa sapete fare? E allora cominciamo a vedere quali sono le cose che uno si può fare da solo per rendersi autosufficiente o almeno per avere un po' di soddisfazione, e cominciamo a parlarne con Annalisa De Luca. Benvenuta. Ciao. Allora Annalisa, tu hai scritto un libro che si chiama Facciamo il pane. Allora considera che io sono assolutamente negato per queste cose e lo dichiaro proprio spudoratamente. Da cosa si comincia? Da non comprarlo più, ecco, da cominciare a dire va bene, d'ora in avanti me lo faccio da solo, e che venga meraviglioso, che venga una panca, comunque lo faccio da solo. Diciamo che questo è un buon modo di cominciare con una certa costanza, perché alla fine uno, dopo qualche volta che mangia le panche, o rinuncia oppure decide di andare avanti. Temo che potrebbe iniziare un certo dimagrimento per me, però vediamo che cosa serve intanto. Intanto servono delle buone farine, questo è uno dei punti di partenza principali, perché comunque, come in qualunque altra cosa da mangiare, gli ingredienti sono fondamentali. Quindi cercarsi delle buone farine, biologiche, magari della zona, comunque diciamo che questo è un punto di partenza. Poi se uno dice oh, voglio comunque provare, comincio oggi, è pieno di voglia, di decisione, di entusiasmo, può anche prendersi una farina qualunque, di quelle che si trovano in qualunque supermercato, e intanto buttarsi e cominciare. Allora, attrezzi, cose che servono, proprio pratiche? Basta un qualunque tavolo, al limite anche una di queste tovaglie plastificate, e poi le mani, acqua e lievito, se si vuole cominciare con il lievito di birra, oppure se proprio si vuole esagerare, cominciare a guardarsi intorno e cercarsi una pasta madre. Tempi? I tempi dipende, se si decide di cominciare con il lievito di birra è piuttosto semplice, veramente basta mettere insieme acqua, farina e lievito, anche seguendo semplicemente le istruzioni che ci sono sulle confezioni che si comprano che sono già pronte per fare il pane. In quel caso, ma ci vorrà, diciamo, 2 o 3 ore al massimo. Poi ora siamo d'estate, si va anche veloci, magari d'inverno ci vuole un po' di più. Invece se si decide di farlo con la pasta madre, allora ci vuole un po' più di studio, diciamo così, anche un po' più di tempo. Tu quanto pane fai, ad esempio? Io ne faccio circa 3 kg a settimana, che è poi quello che consumiamo noi. Noi siamo in 4, io, mio marito e 2 bambine, quindi in una settimana sì, più o meno consumiamo 3 kg di pane, e quello che faccio una volta a settimana ci basta. E tu che sei brava, quanto tempo gli dedichi? D'inverno ci posso dedicare dalla mattina fino alla sera, ma non è che sto sempre lì a guardare il pane, nel frattempo faccio altro nei tempi lunghi della lievitazione, d'estate mi bastano 3 ore. Senti, una cosa che mi ha sempre affascinato del pane è il pane che tipo dura un mese, è ancora immangiabile, e il pane che dopo mezza giornata già lo lanci e ti rimbalza. Questo pane fatto in casa, più o meno a che tipologia appartiene? Quanto dura? Dura parecchio. Diciamo che fatto con la pasta madre dura una settimana, poi ora appunto dipende anche sempre dalle stagioni, mi spiace tornare sempre lì, ma cambia tanto. Senti, ma una tua opinione sulle macchine che fanno il pane, queste che uno si compra, ci infila dentro la roba e quelli non so come fanno, girano, ruotano e poi ti restituiscono la pagnotta. Senti, io non li comprerei, però è un modo di iniziare, basta che non diventi un altro elettrodomestico in mezzo a tutti gli altri che vengono usati per un mese e poi abbandonati nell'armadio o rivenduti su eBay. Senti, a spanne, quanto si può risparmiare facendosi il pane da soli? È parecchio, diciamo che c'è un aspetto di minore spreco fortissimo, perché col fatto che comunque il pane dura una settimana hai tutto il tempo anche di capire quanto ne consumi e quindi di produrne la giusta quantità. Ok, ti faccio questa domanda. Secondo te, beh, poi io immagina, c'è un mio amico single che vorrebbe sapere. Secondo te fa con le donne che io le invito a casa e gli faccio il pane fatto da me? Può funzionare come sensualità, come rimorchio? Senti, io penso di sì, non ho esperienza al riguardo, ma è comunque affascinante in generale, cioè quando dico che faccio il pane tutte le settimane, tutti rimangono sempre piuttosto stupiti, cioè l'idea, anche forse rivoluzionaria, di prendersi in mano una parte essenziale della propria alimentazione che siamo tutti abituati a delegare ad altri, quindi questa cosa può avere un fascino, no? Il fascino della persona autonoma, e che quindi ha fatto una scelta e segue coerentemente questa scelta che ha fatto. Benissimo, noi ti ringraziamo Annalisa e diamo anche il tuo sito, che è fermentiselvatici.org. Grazie per averci iniziato all'arte di fare il pane. Grazie a voi. Quando a casa tornerai, vienimi a trovare, io ti posso offrire il pane. Quando a casa tornerai, vienimi a trovare, io ti posso offrire il pane. Il pane, quanto è bello farsi il pane, questa idea che ti fai il pane, poi casa tua profuma di pane, però non di solo pane vive l'uomo, è bello saper fare anche qualcosa di magari apparentemente più futile, ma magari anche più divertente. Quindi io sono al telefono con Lelio Bottero, che ha scritto un libro che si chiama Birra fatta in casa. Benvenuto Lelio. Grazie Achille, buongiorno, scritto con Matteo Biglia. Allora, cominciamo... Quello bravo è lui. Sì, vabbè, dai, cioè, ci fidiamo anche di te. Cominciamo da una cosa, come quando si fanno i programmi di cucina o i libri di cucina. Farsi la birra in casa, livello di difficoltà, facile, medio, difficile, cintura nera. Poco più che facile, un minimo di impegno. Tempi? Tempi da poche ore, fermentazione della birra a parte, imbottigliamento a parte, a impegno anche importante. In super sintesi, che cosa serve per farsi la birra in casa? Allora, esistono dei kit preparati estremamente semplici, quelli con cui tutti iniziano, dove sostanzialmente c'è tutto. Devi semplicemente scaldare un po' di acqua, girare un po' con un mestolo, la sto facendo molto semplice, chiaramente, mettere il lievito, aspettare che fermenti, imbottigli e dopo qualche giorno puoi berti la tua birra. Di lì si va increscendo, questo è un metodo in kit, si arriva al metodo all grain, salta un po' le fasi intermedie. Il metodo all grain è esattamente identico a quello che utilizzano i microbirrifici italiani, che utilizzano le grandi birrerie. Quindi si parte dal malto d'orzo in chicchi, con un mulino si macina, anche qui c'è un discorso di acqua calda, di lavoro, di aggiunta di luppolo, che è chiaramente molto importante, di aggiunta di lieviti, fermentazione e poi imbottigliamento. E ci sono degli home brewer, quindi di chi si fa la birra in casa, veramente bravi, che fanno delle birre eccezionali. Dimmi una cosa, perché io devo capire, voglio far capire l'ammortamento, quante birre mi devo scolare prima di cominciare a risparmiare, a farmelo convenire. Qual è l'investimento iniziale minimo per iniziare a farlo? Ecco, più che l'investimento è il fattore amici che si fa regalare la birra, che secondo me incide parecchio. Allora, l'investimento iniziale è di qualche decina di migliaia di euro, sotto i 100 euro tranquillamente. E con questi kit si fanno 23 litri di birra per volta. No, scusa, non ho capito, quanti decine di migliaia di euro? Decine di euro. Decine, ecco. Cominciamo già a pensare a dover vendere casa, o che non ho, tra l'altro, in affitto, ho la macchina per farmi la birra. E... No, risparmio c'è, ecco. Il lato economico è molto interessante. Quanto si risparmia a farsi la birra in casa? Sicuramente si spende... adesso vedo di centrare la cifra, pochi centesimi al litro, quindi se non si considera, ed è ovvio, il fattore manodopera che inciderebbe parecchio da un punto di vista proprio di materie prime, la materia prima più importante è l'acqua, segue il malto d'orzo, che ha un costo ma comunque modesto, per cui tranquillamente si fanno delle ottime birre con un costo di pochi decine di centesimi al litro. Quanta birra ti fai tu? Con l'amico Matteo, quando facciamo la birra, normalmente ne facciamo 50 litri, abbiamo un impianto già un attimo più evoluto, e la facciamo una decina di volte all'anno. C'è sempre il fattore amici, lì che ti sbilancia. Improvvisamente non è autoconsumo, ahimè. Sì, sì. Improvvisamente scopri di avere un sacco di amici che ti vengono a trovare, o che... Certo, e che portano le soppressate di cui parlavi all'inizio, però. Quindi sono sempre... è molto aggregante la birra. Il baratto. Torniamo al baratto. Io vi faccio la birra e voi mi portate qualcosa che non so fare. Ti ringrazio, Lelio. Ricordo, birra fatta in casa, scritto anche con Matteo Biglia, e grazie per averci spiegato, almeno iniziato a spiegare, come si fa la birra in casa. Oh, what is the malted liquor? What gets you drunk or quicker? What comes in bottles or in cans? Beer! Can't get enough of it. Beer! How we really love it. Beer! Makes me think I'm a man. Beer! I could kiss and hug it. Beer! But I'd rather chug it. Beer! Got my belly out to here. Beer! I could not refuse it. Beer! I could really use a beer. Beer, beer. Ecco, un piccolo omaggio alla birra, alla mitica birra Duff dei Simpson, che insomma tutti amiamo, anche se non abbiamo mai trovata nei negozi. E però cambiamo alimento, perché ci sono tantissime le cose che si possono fare in casa o insomma in degli spazi comunque domestici, e quindi sentiamo Dave, benvenuto a Giro di Vita. Piacere. Allora, tu intanto hai fatto un cambio vita, sei passato da Milano a gestire un'azienda agricola dove? Nel Basso Lodigiano. E tu ti fai lo yogurt? Sì, tra le altre cose sì, lo yogurt è una passione. Quanto te ne fai? Più o meno ho adattato un'incubatrice, riesco a farne una decina di chili alla volta. Cioè non è un macchinario apposito, tu hai adattato un'incubatrice? Esatto, sì, ho modificato la temperatura di esercizio e posso farne quella quantità lì alla volta. Necessario per fare lo yogurt? Latte e altro yogurt. Io ho fatto alcuni esperimenti e tra fermenti e quant'altro preferisco, come si dice... l'innesto di yogurt. Ecco, io non mi fido di me, e magari c'è la categoria è rappresentata tra i nostri ascoltatori. Qual è il rischio, il problema? Cioè mi faccio uno yogurt che poi mi fa stare male, che non viene bene, non me ne accorgo? Beh, come tutte le cose c'è un protocollo. Secondo me la cosa più importante sono, allora, la temperatura in cui si fa fermentare il latte. E vabbè, 44 gradi nelle yogurtiere è già impostata. E seconda cosa, vabbè, l'igiene, come avete detto prima per la birra, anche lo yogurt è già importante. Ok, ti chiedo una cosa così al volo, facci un elenco, cos'altro ti fai tu a parte lo yogurt? Beh, in questa stagione è marmellata go go, perché c'è un sacco di frutta e non mi piace sprecarla, poi me la godo in inverno. Ok, e... allora guarda, ci risentiremo, così ci racconterai magari anche come fai questo. Grazie. Potrebbe esservi utile questo stile di vita se al McDonald's sotto casa ordinate il solito. Pensate che il merluzzo sia un pesce a forma di bastoncini arancioni. Avete fatto il mojito con l'ortica pensando che fosse menta. Il primo numero sul cellulare è quello della pizza a domicilio. Per voi il miglior amico dell'uomo è il forno a microonde. E mannaggia a me, mi ci riconosco in alcune di queste cose, pur venendo dalla campagna. I miei negheranno di avermi mai visto e conosciuto. Per fortuna ci sono gli ascoltatori di Radio 24, che sono sempre pieni di risorse. Isa, benvenuto. Sì, pronto, buongiorno. Isa, il tuo nome è particolare per un uomo, di dove sei? Albanese sono. Tu per passione hai fatto anche 386 bottiglie di birra? Sì, compresi 4 Magnum, in cui uno l'ho aperto ieri. Ah, ecco, quindi la conservi anche? No, beh, era l'ultimo per festeggiare così, insomma. Come ti veniva questa birra? Ti veniva bene? Beh, molto bene, mi piaceva tanto, l'ho fatta in grandi quantità solo per me e per i miei amici. Dimmi una cosa, quanto ci hai messo a diventare bravo? Quanti tentativi hai fatto? Beh, devo dire la verità, già dal secondo tentativo sono stato bravo, perché ho visto che era veramente una passione. Ma tu continui o hai smesso? Beh, quest'anno non ho più potuto fare per motivi tecnici. Comunque lo posso rifare quando voglio, perché gli attrezzi ce l'ho in casa. E non hai mai pensato di farne anche un secondo lavoro? Non è una tentazione? Beh, diciamo che sono pieno di voglia e ho un jolly in tasca che posso giocare quando voglio, insomma. Insomma, oggi domani puoi dire anche io so fare la birra. Ti ringrazio, Isa, per avercelo raccontato e poi andiamo avanti. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own. Quante cose si possono fare con le vostre mani? Vediamo che cosa fa Luigi. Pronto, benvenuto. Eccomi, buongiorno, buongiorno. Allora, Luigi, di mestiere, di professione ufficialmente? Di ingegnere. E nel weekend? Nei weekend in campagna, perché qualche anno fa, direi una quindicina d'anni fa, ebbi la possibilità di comprare un piccolo pezzo di terra e quindi da lì poi sono venute fuori tante altre cose nel frattempo, e che tra l'altro poi fine settimana mi scarico un po' tutte le tensioni e lo stress, e cerco anche, adottando la manualità, quindi usando un po' la manualità, scaricare un po' tutto lo stress accumulato durante la settimana. Cosa ti fai? Cosa mi faccio? Mi faccio, diciamo, dipende dalle stagioni, sicuramente l'olio nel mese di novembre, poi faccio i carciofini sott'olio, fatti chiaramente prodotti da me nel mio orto, i fagiolini sotto aceto. E queste cose te le fai tutte proprio da solo? Me le faccio solo da solo, sì. Pomodorini, che sono apprezzati, pomodorini secchi sott'olio, apprezzatissimi dagli amici che poi vengono il fine settimana da me. Oppure a giugno si fa il famoso nocino, no? Il 24 giugno con le noci, con le uova fatte dalle mie galline, e poi faccio anche delle buone apprezzate frittate. Grosse, diciamo, suppongo. Particolarmente grandi. Tipo? Sono arrivato a fare una frittata da 60 uova, mettendo dentro non solo le 60 uova ma anche un caciocavallo intero, poi a seconda delle stagioni verdure varie, dai carciofi alle zucchine, faccio delle frittate con varie spezie, quindi basilico, prezzemolo. Roba pronta per la prova costume, cioè per l'estate, per dimagrire, ci metti il caciocavallo. Oppure faccio anche le ciliegie sotto spirito, perché ho degli alberi di ciliegio e quindi nell'epoca dei ciliegi metto queste ciliegie sotto spirito. Luigi, dimmi una cosa, da quando tu fai queste cose così? Poi quando vai al supermercato a fare la spesa, che cosa sapori, compri? I sapori sono diversi, completamente diversi. Io non vado, no, al supermercato è difficile che vado, ci va mia moglie, purtroppo durante la settimana non c'ho proprio il tempo per fare questa attività. E il fine settimana te ne vai in campagna? Fine settimana vado in campagna. Dimmi... E lì mi scarico in questa maniera. Dimmi in sintesi, proprio una parola, la cosa più facile da cui magari iniziare e la cosa più difficile, quella che ci vuole molta esperienza. ma guarda, sono cose abbastanza semplici, un po' tutte, perché poi queste cose qui non è che ci vuole una grande esperienza. Ma secondo te, se uno invece non avesse gli spazi della campagna, avesse il suo appartamento, il suo balcone, cosa potrebbe fare di queste cose? Ma io, non si possono certo immaginare di fare in casa fagiolini o carciofini o pomodori, però il nocino, per esempio, sicuramente si può fare. Si comprano, oppure si va da qualche amico a prendere il giorno 24 di giugno le noci dall'albero, anzi in particolare 24 noci per ogni litro di è proprio una formula magica, non può essere 24 noci il 24 di giugno. È il 24 di giugno in un litro di alcol, con Perfetto. Altre spezie logicamente. Ci proviamo, grazie Luigi. No, grazie a tutti, ciao. Allora, io ringrazio ovviamente Alessandro Chiappini che si è occupato della parte tecnica e Fabrizio Intonti che mi sta qui sempre a fianco, e ringrazio voi per averci ascoltato e anche perché ci scrivete a girodivita@radio24.it o su Facebook sulla nostra pagina, la pagina di Giro di Vita. E però noi di solito vi raccontiamo delle storie forti di gente che ci ha messo anni a cambiare vita e voi lì dite sì, lo farei, però chi lo sa. Qui vi stiamo raccontando cose pratiche, farsi il pane, il vino, il nocino. Io qua voglio che voi ci proviate. Lunedì mi aspetto delle mail di qualcuno che mi dica: oh, ci sto provando. Buon fine settimana. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.